L'acqua della vita. C'era una volta un re che si ammalò gravemente e nessun medico di nessun regno riuscì a trovare il rimedio per la sua guarigione. Credevano che non avrebbe vissuto abbastanza a lungo per vedere la luce del giorno. Oh, dove sono i miei figli? Li voglio al mio fianco. Il re aveva due figli. Il maggiore, William, aveva sete di potere e voleva ereditare il regno. Il più giovane, Harry, tuttavia, era gentile e innocente. Si prendeva cura di tutti e amava suo padre moltissimo. Come sta mio padre? Abbiamo fatto del nostro meglio, ora solo un miracolo può salvargli la vita. Nel frattempo, William era innamorato di una ragazza di nome Miranda. Trascorreva le sue giornate con lei e le raccontava tutto ciò che accadeva nella sua vita. Sai, tesoro, voglio davvero diventare il preferito di mio padre, ma sento che ama Harry più di me. Spero solo che non erediti il trono al posto mio. Tu e solo tu diventerai il re, amore mio. Come puoi esserne così sicura? Perché conosco il modo per farti conquistare il cuore di tuo padre. Prendi questa pozione di mia nonna. Fagliela bere e tornerà in salute. Oh, cara, sei l'unica che mi capisce. Una volta diventato il re, prometto di farti diventare la mia regina. Oh, dolcezza, mi ami così tanto. Ma William non sapeva che Miranda non cercava il suo cuore, ma bensì qualcos'altro. Che sciocco! Nel frattempo, Harry aveva il cuore spezzato perché non poteva vedere suo padre soffrire così. Pregò sinceramente per la guarigione del suo amato padre. Oh, angeli, per favore, mostratemi un modo per riportarlo in salute. Fu allora che un angelo apparve nelle vesti di un vecchio saggio e vide Harry piangere. Cosa ti affligge, giovane principe? Chi sei? Sono un saggio che vaga per il regno in cerca di conoscenza. Ho notato che piangi, quindi ho deciso di fermarmi. C'è un modo in cui posso aiutarti? Mio padre, il re, è molto malato e i dottori dicono che nessuna medicina al mondo può farlo guarire. Conosco un rimedio che troverai in una grotta sopra la quale la luna brilla fortemente. Si trova a diversi regni di distanza e il percorso presenta numerosi ostacoli. Si chiama l'acqua della vita. Come faccio a raggiungerla? Posso percorrere chilometri e affrontare qualsiasi ostacolo per rimettere in salute mio padre. Così il saggio diede le indicazioni per l'acqua della vita a Harry. Harry partì alla ricerca dell'acqua della vita. Dopo aver viaggiato per due giorni, raggiunse una fitta foresta dove incontrò un nano. Ciao! Sento qualcuno avvicinarsi! Mi puoi aiutare? Da dove viene questa voce? Per favore aiutami se mi puoi sentire! Chi ti ha intrappolato in questa gabbia? Una strega ha usato il suo potere malvagio per intrappolarmi qui! Puoi liberarmi tagliando le catene di questa trappola? Per favore! Harry tirò fuori la sua spada per liberare il nano. Il nano lo ringraziò e chiese a Harry di unirsi a lui per la cena. Ma Harry disse che aveva fretta e se ne andò per continuare la sua ricerca. Dopo aver viaggiato ancora, Harry si fermò al suono di un lamento. Seguì il suono e trovò un leone vecchio e malato. Oh, cielo! Sembra così fragile e debole. Deve avere fame. Arriverò tardi, ma non posso lasciarlo in questo stato. Harry diede da mangiare del pane al leone e gli lasciò tutto il suo cibo. Continuò a camminare alla ricerca dell'acqua della vita. Harry ora aveva molta fame, ma continuò la sua ricerca. Cavalcò attraverso un vento penetrante, attraverso una forte nevicata e infine raggiunse la grotta sopra la quale splendeva la luna. Affamato e assetato, Harry cadde privo di sensi all'ingresso della caverna. Harry, svegliati, svegliati, Harry. Tu, come mai sei qui? Non sono un saggio, sono un angelo. Non potevo vederti piangere, così sono apparso di fronte a te nelle vesti di un saggio. È bello vedere un'anima gentile che aiuta gli altri senza pensare a se stesso. Ecco, l'acqua della vita. Bevine un po', rimetterti in forza e porta il resto a tuo padre. Harry bevve l'acqua della vita e riacquistò le forze. Ringraziò l'angelo e portò il resto a suo padre malato. Di ritorno nel regno, la pozione di Miranda aveva riportato in salute il re. Il re fu colpito dal comportamento di William e decise di farlo diventare re. Ma dov'è Harry? Non lo vedo da una settimana. Come può un figlio essere così insensibile da andarsene quando suo padre è malato? William approfittò della situazione e istigò il re a far arrestare Harry per la sua irresponsabilità. Padre, a lui non importa. Non gli importa di te, di me o del regno. Suggerisco di metterlo dietro le sbarre per qualche tempo per insegnargli una lezione. Nel frattempo, Harry fu felice di essere tornato a palazzo con l'acqua della vita. Ma William aveva piani molto differenti. Arrestatelo immediatamente e mettetelo dietro le sbarre. Ma fratello, che cosa... Non meriti alcuna spiegazione. Ah! Vieni. Il nuovo re verrà annunciato oggi. Tutti sono invitati nell'arena del palazzo. Evviva, evviva! Abbiamo un nuovo re. Deve essere il principe Harry, è un'anima gentile. Harry era rinchiuso nella cella, dove sedeva tristemente, abbattuto e ferito dal fatto che suo fratello lo avesse fatto imprigionare. Perché non mi ha dato la possibilità di parlare? All'improvviso fu sorpreso da un forte rumore. Tu, come sei entrato qui? Sono qui per liberarti. Ma come facevi a saperlo? Non abbiamo tempo per questo ora, scappiamo in fretta! Ma questo palazzo è molto sorvegliato. Non ti preoccupare, c'è qualcuno che si sta prendendo cura delle guardie. Andiamo! Aiuto, c'è un leone! Aiuto, c'è un leone! Aiuto, c'è un leone! Vieni, perdi qua! Mentre il principe William stava per essere incoronato re, il re iniziò a sentirsi male e cadde a terra. Cos'è successo al re? Oh no! Pensavamo si fosse ripreso! Cosa gli hai dato? Mio padre è di nuovo malato! Donna miserabile! Mi hai ingannato! Come osi? Volevi tuo padre vivo solo per essere incoronato re e ora mi stai incolpando! Non alzare la voce! Ti farò arrestare! Tu farai arrestare me? E la strega Sabrina? Ho sentito che è molto potente. Sì, lo è! Correte per la vostra vita! Non hai la minima idea dei miei poteri. Io ti... Ah! Sabrina, è tempo di pagarla! Oh! Padre, per favore, bevi questa. Il re beve l'acqua e si sentì subito meglio. Si alzò immediatamente in piedi. Grazie, figliolo. Mi sento molto meglio. Che cosa mi hai dato? Harry spiegò tutto a suo padre. Anche il motivo per cui si era dovuto allontanare quando lui era malato. Sentendo questo, il re si vergognò. Perdonami, figlio. Ti ho frainteso. Va bene, padre. Sei in buona salute. Questa è la cosa più importante per me. Anche William si fece avanti. Oh, fratello, perdona anche me. Ero sotto l'incantesimo della strega e non sapevo cosa stavo facendo. Oh, non essere ridicolo. Abbracciami come ai bei vecchi tempi. E così i fratelli si abbracciarono. Il re sorrise. Presto, William e Harry furono entrambi incoronati. Governarono insieme il regno, assicurandosi che streghe come Miranda stessero alla larga. Lunga vita ai nostri re!